YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Buon pomeriggio, anzi buonasera, visto che ormai è autunno, la sera arriva prima. Benvenuti a Radio Tube. Siamo arrivati addirittura alla seconda puntata. Daniele, non ci hanno cacciato. Ci avresti scommesso? No, nulla, non ci avrei scommesso nulla, quindi torniamo ad ascoltare l'imperdibile, l'imperdibilissimo della settimana, anche il perdibile, anche le cose ampiamente perdibili della settimana. Soprattutto le cose che avete perso. Soprattutto le cose che avete perso, che potete recuperare, grazie, e che non avreste comunque voluto recuperare, ma ve le facciamo recuperare, grazie a RadioTube. Un corso di recupero, diciamo. Un corso di recupero anche, TV, anche per noi, per anche quello che ci siamo. Soprattutto per me. Tra TV, web TV, social TV. Tutto quello che ha fatto parlare il web, che ha fatto scatenare i mouse, la prima puntata io ho detto 3 volte più cliccato, l'ho detto. Sì, invece le mie colpe sono aver detto stranomaverismo, che però bello, stranomaverismo, mi piace, e aver citato da snob il quarto stato per parlare della piazza, di cui parleremo ancora. Parleremo ancora della piazza, e che piazza, io la odio. E che piazza, però amo solo le vie. Io vorrei partire con il vero personaggio della settimana, perché solo un personaggio ha fatto davvero tremare tutte le ma classifiche. Io sta cosa già non la capisco. No, ma, guarda, è qualcosa di bellissimo. Allora, io non ero nemmeno davanti alla TV, perché sabato sera, sabato io. Scorso, io ero a una San delle Remo. Tue cose, sì, social, ero al premio Tenco, era sì. Sanremo. Ho cominciato a vedere Twitter che esplodeva parlando di Sandro Maier. Cos'è successo? C'era Ballando con le Stelle in onda. Sentiamo cos'è successo. Tanto chi l'ha visto sa benissimo quello che è successo sabato scorso nella prima puntata di Ballando con le Stelle. Che sorpresa! Sandro Maier, il nostro commentatore a bordo campo. Allora, no, siamo... Scotti, no, non avere paura, non è un gatto, non era un gatto, su, no, abbaiava per aver visto un gatto. Ok, va bene. Direttore, Simo, io ti faccio i complimenti perché hai il coraggio da vendere e hai il coraggio di buttarti in questa impresa stupenda con Milli. Guarda, complimenti, bravo, bravo. Oh mamma mia. Io devo dire, sono contento che Sandro abbia affrontato l'argomento coraggio. Coraggio da vendere. No, però adesso la devi proprio spiegare con le parole, ti voglio vedere. Facciamo vedere alla radio che Sandro Maier si è presentato a Ballando con le Stelle con un sontuoso parrucchino, dobbiamo dirlo. Ogni cosa al suo nome. Un sontuoso gatto in testa. E questo ti ha fatto Ma io impazzire. Mi sono divertita come una pazza, ma non ci si presenta da un giorno all'altro con l'onda. Ma non ho capito, dei ma qual è il problema? Il tipo di parrucchino, la scelta del parrucchino, non ho capito. Qual Così, è il problema? Qual è la abrupto? Notizia? Ma dai, ma non è come se domani tu mi si presentassi platinato. E così tu ti ricorderesti di questo evento clamoroso. Quindi secondo te ma tra l'altro stato... Milly Carlucci lo dice, che sorpresa. Io ho scoperto che era Ballando molto tempo dopo aver scoperto che Sandro Maier era sontuosamente, come hai detto tu, tornato in televisione. Straordinario. Allora, Twitter si è scatenata, si è soprattutto scatenato l'hashtag mai dire Maier. Sì. Io lo trovo irresistibile, chi l'ha inventato? Franco Bagnasco, collegati Tifosi e Canzoni. Franco, eccoci! Sì, ciao. Franco, ciao, come ti è venuto questo mai dire Maier? Perché sul mai dire si gioca molto, poi fra le cose che, come dicevate prima, si perdono ma non si possono recuperare, ci sono i capelli e quelli di Sandro Maier in particolare, quelli di tutti, ma insomma, di Sandro Maier in particolare. E allora mi è venuto subito il mai dire Maier e poi varie battutine, tipo insomma il trico direttore, il capello sulle 23. Il capello insomma, sulle 23 è bellissima. Sì. Poi ma lui dai, è stato fra l'altro censurato dall'ordine, ma dei parrucchieri poi dopo questa non perché dopo una vita spesa nel giornalismo, dopo anni di trucco ha prevalso il parrucco, quindi parleremo di entrambe le cose, parleremo oggi anche di trucco in questa però puntata, io di non Radio condivido Tube. Dovremmo mostrare più spirito di squadra. Io ho una vita che lotto con questa ansia, trovare il coraggio di combatterla in questo modo così plateale, fare un momento di televisione così, come dire, proprio aleatorio, cioè aveva tutto questa scena, no? E mettersi un gatto in testa, però dai, non è il caso. Non so, secondo almeno, me Franco Bagnasco capito, tifa per la mia teoria del il gatto in testa anche no. Il gatto in testa no, anche ma no, voi poi... ma fate i gradualisti, cioè tu all'inizio hai detto sì, no, si può fare, ma alla fine di un processo. Dai, quello un non capello è alla volta ti incolli, ti incolli un capello alla volta, mica direttamente le onde del mare. Ma poi dopo RadioTube non avrebbe parlato di quello che è successo, no? Ah, l'ha fatto per con noi. Con Franco Bagnasco al telefono. L'ha fatto per noi, Franco_Bagnasco, perché visto che diamo anche i nostri account, il mio è @MartaCagnola, quello di Daniele Bellasio è di Bellasio. Franco, allora, alla fine, cosa sentenziamo? Gatto in testa, ops, rinfoltimento tricologico e capillare, sì oppure no? No, in questo caso no, anche se somigliava a un po' a Robert Redford, come ha detto la Lucarelli. Però io citerei Vasco qui, voglio trovare un senso a questa chioma, anche se questa chioma un senso non ce l'ha. Ecco. Qui, secondo me, io mi fermerei qua. Anch'io fermo qui, come cantava quel cantante degli anni 60. Franco, ma grazie. Possiamo rubare Mai Dire Maier per fare una rubrica? Franco, possiamo fare la rubrica Mai Dire Maier? Ormai lo vogliamo adottare. La sorpresa della settimana, che sorpresa e che coraggio. La sorpresa della settimana, hashtag Mai Dire Maier. Il grande coraggio della settimana, esatto, sì, mi piace. Grazie Franco Bagnasco, grazie a presto. A voi. Ciao. Quindi, ciao. Grazie, ciao Franco. Quindi, Daniele, stavolta la sfida l'ho vinta io, se dobbiamo sfidarci su qualcosa. Sui capelli di Sandro Maier, no. Mi dispiace sia stato un uomo, perché io ripeto, questo è un argomento molto delicato per noi, va affrontato con una certa delicatezza. C'è una tinta di capelli che ha una sfumatura molto precisa. Io la chiamo la sfumatura Gianno Morando. È quel castano tendente al mogano scuro. Ne parleremo tra poco, perché ora ci sono le indicazioni per chi sta viaggiando. RadioTube. Rieccoci con Daniele Bellasio e Marta Cagnola, anzi con i nostri nomi di battaglia, chiocciola di Bellasio, chiocciola Marta Cagnola, ma sai che abbiamo anche dei nomi d'arte? Vabbè, il mio nome d'arte me l'hai dato tu, mi piace moltissimo, Marta sul Tube mi piace, sì, tantissimo. Marta sul Tube, io non lo voglio dire. Guarda, ne abbiamo trovato uno, bellissimo, anzi la... Lo posso dire, l'ha trovato Fabio Cantadori in regia. Tu non sei più Daniele Bellasio, vuoi sentire qual è il tuo nome di battaglia? Come sempre, una cosa che sento per la prima volta. Daniele Bellazio. Ti piace? Non era male. Perché noi siamo tutti giovani. Ieri sera una collega mi ha detto: io tempo fa ti chiamavo Belvasio, perché c'era radio di quella di cui Quella di cui parleremo dopo, quella di cui avremo forse però parliamo. Bellazio mi piace. Vabbè, insomma, non so se parliamo di giovani, di vecchi. Intanto mi autodenuncio, detto giovani. Aleatorio, prendi nota. Io non ho ancora detto più cliccato, potrei dirlo ora, adesso non lo so, intanto prendo non nota. Non credo, non è il caso aleatorio. Del prossimo video. Allora, il prossimo video. Abbiamo parlato della tinta color Gianno Morando, perché è una sfumatura molto usata nell'arte tricologica maschile. Sei sicura che sia tinta? Ma no, ma Gianni Morandi è un eterno ragazzino, Gianni Morandi è il vero giovane, Gianni Morandi è l'ultimo giovane che vive in Italia e ce lo ha dimostrato questa settimana con un video che io ho trovato dal sito ufficiale di Queen Mediaset, che ha messo online tutte le puntate. Non in qualità altissima, quindi si sente così così, ma insomma questa è la qualità che noi troviamo in rete, noi alla rete e ai video che troviamo in rete siamo assolutamente fedeli. Sentiamo cosa ha combinato questa settimana Gianni Morandi. Raffaella, la nostra Raffaella. Ormai il mondo dance è il tuo, ma da che cosa dipende questa cosa? Ma guarda, un po' da The Voice, so che qui c'è anche il grande Cocciante. Sì. E poi anche da... Beh, da Bob Sinclair, che è quello lì, ha fatto ballare tutto il mondo con quella... Com'era? Ma vediamo, ve la ricordate? Sentiamo? Hai visto? A far l'amore comincia tu, a far l'amore comincia tu, a far l'amore. Eccoli qua, due ragazzini. Questo non è un paese per giovani, non è un paese per... Beh, allora, che cosa, come commentiamo questi commentatissimi in rete Morandi e Carrà? A me, io mi sono divertita, tu secondo me un po' meno, no, so no, perché no, ho no, questa assolutamente. Sensazione. Prima di tutto, non ho capito bene, ma era diviso in due puntate. È come dividere una partita di calcio, il primo tempo lo trasmetto mercoledì, il secondo giovedì. Eh beh, così tengo le persone allo stadio, anzi vendo i biglietti per il mercoledì, i biglietti per il giovedì, non è una cattiva idea. Sì, ho capito, ma è sempre il commercio che guida, no? Una storia, un concerto, un'unica cosa, intanto questo non mi piace. Poi mi sa che la televisione sta invecchiando soprattutto dall'altra parte dello schermo, per fare grandi ascolti bisogna convincere a restare incollati alla televisione un telespettatore che inizia ad avere una certa età, perché tutti gli altri sono sui social network come noi, che non come stavamo noi, che guardando. Commentiamo quello che in realtà gli altri stanno vedendo, è complesso però infatti è affascinante. Io ho teoria. Una teoria, praticamente il successo sui social network di una trasmissione è inversamente proporzionale al successo dell'audience, cioè se tanti la twittano, pochi la guardano, con la ti twittano ho perso la partita. Riferendo a qualcosa di cui forse parleremo tra poco, forse? Può ogni darsi. Riferimento a fatti e persone realmente, ma io leggerei un po' di tweet che mi sono segnata sul concerto di Morandi in Arena. Morandi live in Arena era l'hashtag. Tommaso Labate, il bravo Tommaso Labate, e l'Arena Labate. Era la parte più bella perché tra l'altro si vedeva tutta benissimo, bella l'Arena. Tommaso Labate ha scritto: uno che segue l'Italia via Twitter starà pensando, oh, quella è gente che non fa altro che ascoltare Gianni Morandi e leggere Alice Munro, un altro dei top pic frequentati dalla rete, il Nobel per la letteratura, viva Dio, insomma, perlomeno è stata citata da Twitter. E la rete va a ondate, no? Tu clic, parte l'ondata e quindi sembra che tutto il mondo stia parlando di un'unica cosa. Un grande saluto a fratello interista Tommaso Labate. Ah, ecco il calcio, ti doveva venire fuori. Allora, invece non l'hai andiamo... ancora messo in scaletta mai. Non ho ancora mai messo in scaletta il calcio, e ma non ho, ne che ho... No, non ho fatto apposta, non ci sono cose. Televisioni sono due cose, il calcio e i comici. Ormai, essendo morto, sì, quello, perché, di, cui quello parleremo di cui forse tra poco. Parleremo tra poco. Questo talk che aleggia, ma noi questo stiamo facendo talk. Un talk. Oddio, adesso che mi ci fai il nostro pensare, format, come però si io chiama? Mi sento bene, però io mi sento bene. Allora, non divaghiamo. I colleghi di Repubblica Spettacoli hanno twittato: Morandi, Morandi live in Arena. Oddio, si sono rianimati tutti insieme, sembra The Walking Dead, non era male. E poi Mr. Swan 75, chiocciola Suanito 75, se facevano Morandi live in Arena ad agosto ci si squagliava Cher, un altro degli ospiti, perché erano tutti sì, molti, infatti erano è morto un altro genere molto. Il revival, perché non si fanno più i revival, perché i revival sono le trasmissioni stesse. Anche questa teoria molto interessante. Parliamo anche del picco d'ascolto, del perlomeno di una delle due puntate di Morandi live in Arena. Io direi che è stata la prima, la seconda puntata, perché la prima puntata c'è stato Fiorello. Che ha preso in mano praticamente il concerto, sembrava ci fosse solo più Fiorello, giustamente. Sì, poi no? Hanno fatto anche un baffa in diretta, vabbè, insomma, uno scherzetto. E invece la seconda puntata, beh, insomma, c'è stato Checco Zalone, quando Checco Zalone arriva non ce n'è per nessuno. Nella prima puntata di Radio Tube abbiamo ascoltato lo sombre sexual, ma io ho riso come una pazza pochito. Con pochito lo sombre sexual. Questa volta invece è andato Checco Zalone ad indagare un altro dramma della società, insomma qualcosa di molto importante. Io riascolterei sempre dal sito di Qui Mediaset, quindi insomma l'audio è quello che ci fornisce la rete, anche legittimamente per alcune ragioni, insomma ascoltiamo insieme questa canzone socialmente impegnata che Checco Zalone ha cantato a Morandi live in Arena. C'ho una malattia che in Brasile non esiste, a dispetto d'un colore mio mulatto, tengo un culo quasi totalmente piatto. Samba senza culo, come un falco che non può spiccare un volo. Samba senza culo. Io l'ascolterei integralmente, però so, vi rimando al sito di Mediaset. Come fa a non ridere di se stesso? Secondo allora, me lui certi è un fuoriclasse in certi per istanti questo. Viene anche a lui da ridere. Beh, è bellissima questa. Poi anche musicalmente è un gioiellino. Musicalmente perfetta, ed è qui il punto, infatti. Se a lui scappasse da ridere, perderebbe quella serietà che fa ridere noi, e quindi secondo me è come veramente un atleta del non ridere di se stesso. Tu dici che c'è stata una frazione di secondo in cui stava per dire ammazza, questo Checco Zalone fa ridere. Beh dai, però la samba senza culo è veramente bella. È un dramma che io personalmente purtroppo non conosco, però è andare a come quello tricologico mio. Ma esatto, ma esatto. Quante cose non conosciamo? Quante cose non conosciamo, ad esempio, e senti che disinvoltura nel passare da un tema a un altro. Voltiamo pagina. Quante cose non conosciamo, ad esempio, non conosciamo il futuro del talk politico. Non conosciamo il futuro del talk politico e non lo conosciamo già da qualche annetto in realtà, perché abbiamo avuto una segnalazione d'eccezione. Daniele, a te è arrivata una segnalazione. No, veramente l'ho visto su Facebook. Pigi Battista ha postato la prova provata che nel 1981 si poteva già fare una trasmissione come Radio Tube. Mi sa che la sentiamo e la vediamo subito. Eh sì, eccola qua, 1981, io vi dico solo un titolo, Sogni d'oro. Ora c'è un diverso atteggiamento da parte degli spettatori nei confronti del cinema, e questo per merito anche dei nostri film. Tanti nostri colleghi... Ma quali colleghi? Non ho colleghi io. In Italia sono l'unico tra i nuovi registi ad avere talento. Voi siete aridi, non sapete cos'è il cinema. Siete corrotti dal vostro desiderio di potere, desiderio ingiusto, dato che siete anche cretini. No. Tempo, arbitro, tempo! Non mi va. È l'unica arma che abbiamo. A stronzo, e fammena pippa, vedi sto a burina ancora parli, ma senta reggi in piedi, sei alto un cazzo e du barattoli con lo sputo da fuochi, ma va fanculo, va, vedi che sei, un brutto stronzo. Votate. Palloncini rossi in schiacciante maggioranza, la volgarità purtroppo ha trionfato ancora una volta, Michele Apicella esce vincitore dal primo confronto. ...1981, Sogni d'oro, Nanni Moretti, c'era già... Apicella, ovviamente. Apicella è il suo alter ego anni prima di Mariano Apicella, omonimia non voluta. L'archeologia del talk show del 2013, ci siamo arrivati grazie, non mi ricordo se l'ho detto, Pigi Battista, firma di punta del Corriere della Sera, l'ha postato dicendo la TV. Solo, dicendo la didascalia, la TV. La TV già nel 1981. Noi pensiamo sempre che le colpe siano recenti, invece le colpe sono lontane nel tempo, ai noi. Sì, oppure Nanni Moretti era particolarmente profetico nel vedere che la lite poteva essere un modo per affrontare il vuoto. Il problema è che la rabbia purtroppo non è una storia, quindi non appassiona più di tanto. Può servire se posta all'interno di un racconto, non trovi? Io sono immersa in un altro dubbio. Sai qual è il mio dubbio? Ma il talk show politico. E no, dobbiamo parlare di questa cosa. Allora facciamo una cosa molto seria. Parliamone. Ne parliamo tra qualche minuto, però, perché abbiamo una breve pausa e ci ritroviamo ancora insieme con Radio Tube. Radio Tube. Rieccoci insieme per la seconda mezz'ora, la seconda parte del nostro Radio Tube che vi tiene compagnia tutti i sabati e tutte le domeniche per parlare di televisione, di come la viviamo in rete, di web TV, di social TV, di un sacco di cose. Daniele, sempre solenne la nostra sigla, che bella questa sigla, da persone serie. Sembra la sigla di un'edizione straordinaria. Ma noi siamo straordinari. Marta Cagnola, Daniele Bellasio, ci trovate sempre su Twitter, non abbiamo una vita reale, siamo sempre sui social. Chiocciola Marta Cagnola, chiocciola di Bellasio su Twitter, e poi abbiamo anche un hashtag, noi lo facciamo anche con le dita, ma voi non ci vedete perché siamo alla radio, RadioTube. Mandateci anche tutti i suggerimenti, tutti i video che vi sono particolarmente piaciuti. Noi promettiamo, parliamo di tutto. Parliamo di tutto, parliamo anche di quella cosa che non abbiamo ancora nominato, non abbiamo ancora detto niente. Edizione straordinaria. Edizione straordinaria. Cosa facciamo? Parliamo di quel programma lì? Parliamo di quel programma lì, di quello che è successo in quel programma lì, di quello che è successo dopo quel programma lì. Dai, nominiamolo, Radio Belva. Che cosa sarà di Radio Belva? Io non lo so, perché non mi fido delle dichiarazioni dei direttori di rete. Ah, se lo dici tu che sai sempre tutto, io mi... allineo. Ti astieni. Allora, iBox rimarrà in sospesa, gabbia. Tornerà in gabbia oppure cambierà rete. Come potrebbe essere? Allora, io azzarderei un'altra rete, un'altra collocazione oraria più tarda. Però, dai, sai come diceva il poeta? Lo scopriremo solo vivendo. Il grande poeta. Certo, si chiamava poeta. Radio Belva. Erano Cruciani e Parenzo. Sono Cruciani e Parenzo. Saranno Cruciani e Parenzo. Non si intitolava Il pranzo è servito. Si poteva capire che forse. Che forse. Che forse. Che proprio forse. La TV. E poi il anche quegli ospiti lì. Ma non lo so. Guarda, io vorrei ascoltare insieme, anzi, mostrarvi alla radio quello che è successo con uno degli ospiti di Radio Belva. Straordinario. Con il professore. Il professore Vittorio Sgarbi. Un momento particolarmente brillante di questa prima e. Unica, ultima, prima di una lunga serie, non sappiamo ancora perché una non solo. Ci fidiamo. Per ora una solo. Ma chissà, io sono favorevole al ritorno di Radio Belva il più presto possibile. Sottoscrivo. Sottoscriviamo, intanto ci riascoltiamo, anzi ci rivediamo alla radio, la lite con Vittorio Sgarbi. Ma lo sai, volevi stare nelle liste con Berlusconi e non ti ci hanno messo. Ma non mi sono mai... Tazza di merda! Oh! No, ci sono mai voluto essere, non devi dirlo! Allora, fai una cosa, documentalo, ti denuncio. Ma lo so, dai! Ma ti piccio in testa! Ma faccia di merda! I grandi momenti dei talk politici di una volta. Che cosa diciamo di tutta questa trasmissione cosa? Sul bon ton, possiamo dire che ha un ritmo la voce di Sgarbi pazzesca. Anche alla radio tu lo vedi. Davvero questa volta lo vedi. Non vediamo che ha fatto il gesto di sbottonarsi i pantaloni non qua. Non vediamo proprio tutto la mossa. Ha fatto una specie di mossa con l'anca terribile. E no, devo dire che io ho trovato bellissima la trasmissione. Una cosa tipo La grande bellezza di Sorrentino. Cioè proprio è una trasmissione che mette in scena, ma proprio mette in scena, la decomposizione, l'ho scritto su Twitter, mi autocito, ma la decomposizione di una cosa che sta languendo ai bordi della nostra televisione ormai da tempo, appunto il talk show fatto col solito modo, due ospiti di qui, due ospiti di là, destra, sinistra, un comico in mezzo che fa due battute. Hanno messo questi relitti di format sparsi su un tavolo, buttati lì assieme a dei giornali, un telefono che ogni tanto suona, e con due conduttori drammaticamente sinceri. Perché la cosa straordinaria di Cruciani è che è sincero, è così. E intanto è un buono, e lo si vede dal sorriso. È tutto l'opposto di quello che sembra in radio, quindi c'è anche il disvelamento di quello che era in... come dire, nell'immaginario, come si dice. Per cui, secondo me, è una trasmissione bellissima. Diranno che siamo di parte perché anch'io mi sono divertita molto. Ma sono molto. Totalmente di parte, però... Io mi sono divertita molto, l'ho trovata solo un po' troppo lunga, però si sa che ormai, per i dati d'ascolto, bisogna allungare il brodo a dismisura. Devo dire, la share, insomma, sì, no, certo, i dati di cronaca sono quelli lì, la share è quella lì. E sicuramente, in certi momenti, la trasmissione scappava di mano, ma anche questo era il bello della sincerità. Io... però ho un dubbio rispetto al tuo apprezzamento su Radio Belva, perché hai... hai iniziato la tua personale campagna per l'abolizione della piazza in televisione. E questo è il punto che volevo dire. Prendono in giro la piazza senza farsene accorgere, però in modo sincero. Però quindi secondo me non se ne è accorto neanche l'inviato, in realtà. No, l'inviato a un certo punto... Vabbè, allora sentiamo, l'inviato in piazza, super che poi inviato. Era un circolo di Sel, era, lo saprete, Emilio Fede, sentiamo cosa ha combinato. Emilio! Grazie! Emilio! Viva l'Italia! Ehi! Viva Radio Belva! Scusami, Dimmi, qua cara. Volevo dire che ci sono, sì... i comunisti, ma si stanno incavolando. Abbiamo anche un comunista somalo. È vero o no? Comunista somalo, no. Ma che dice? Insomma, avevamo promesso che avremmo massacrato Radio Belva, invece l'affetto ha prevalso. No, al di là di tutto io mi sono divertita. Poi vedremo quale sarà il futuro di questa Radio Belva che ha sfidato la gabbia, perdendo, dobbiamo dirlo, perdendo la gabbia, insomma, alla fine non abbiamo ancora capito se è in salute questo talk. Sicuramente nel talk politico, però, tra l'altro, una volta Rete 4 era un'altra televisione. È successo qualcosa che io mi sono perso nel frattempo. Secondo me è successo che non è successo niente, che forse doveva essere ancora un'altra televisione, forse non era quella la collocazione giusta. Però la televisione che adesso andiamo a sentire, una volta era un'altra, si sta scombussolando tutto. si sta scombussolando tutto, tutto resta clamorosamente uguale, però i numeri non so se danno ragione a questo scombussolamento. Comunque, abbiamo detto, la belva, Radio Belva contro la belva in gabbia, la gabbia effettivamente ha vinto nello scontro con numeri, ma anche qui non altissimi. Qual è una delle caratteristiche della gabbia? Anche qui c'è un comico, uno dei video più visti nel sito di La 7 questa settimana. Andiamo a sentire cosa ha combinato insieme a Gianluigi. Il comico deve essere in collegamento, il comico perché, in collegamento perché siccome è nella stilema, TV fotocopia deve essere così. In collegamento con Gianluigi Paragone c'è il riesumato Carcarlo Pravettoni. Pravettoni, abbiamo fatto un gran casino! Buonasera Carcarlo! Buonasera! Ma cosa cantava? Che lingua era quella lì? L'aramaico! Cosa si è bevuto stasera? Dopo una puntata scoppiettante. Allora, Pravettoni, come va? Come andiamo? Ma invece di prendersela sempre con l'euro e con Napolitano, mi faccia dire a me! Mi faccia dire! Vabbè. Andiamo, Pravettoni, cosa permetta, vogliamo dire? Mi permetta di fare intanto i complimenti all'Accademia di Svezia! Ma come? Proprio lei, Pravettoni, sì, che di solito sì parla di cretinate, stasera mi sta parlando di una cosa seria. Loro sì, lì in Svezia, loro sì! È vero, che sono brave persone! Ma certo, certo! Aperte di mente! Ma certo, certo! Hanno dato il premio Nobel a Higgs! È vero, famoso scienziato, ma mi complimento, Pravettoni! Esatto, lui! Bravo, bravo! Il bosone di Higgs! Il sì bosone, finalmente un premio alla comunità omosessuale! Altro che Barilla! Io lo sapevo che... E lo sapevo che tornavamo su Barilla, sulle battute, uffa, uffa. Guarda, però a parziale discolpa bisogna dire che fare il comico alla gabbia è molto difficile, perché ci sono alcuni ospiti della trasmissione che avanzano delle tesi talmente complottarde su qualunque cosa, per cui Carcarlo Pravettoni sembra quasi un ospite ragionevole a quel punto. Certo, le battute, insomma... Poteva far di meglio, tu dici? A me questa proprio non è che mi abbia fatto granché impazzire. Hai però scelto... insomma, però mi diverte molto Paragone quando suona con gli Scassacasta. Devo dirti che alla fine ma è Paragone. Come? Da Rita trovo... Pavone a Paragone. Ma tu di chi sei fan? No, di guarda, più? Rita Bengoni, no, tu allora, metti assieme Rita tutto. Pavone è assolutamente imbattibile. Il mio incontro con Rita Pavone questa settimana, lei sì, che è giovane, la tutti più giovane di tutti quelli che abbiamo citato. Rita Pavone ha un sacco di cose da insegnare a tutti noi. Parleremo ancora della gabbia, magari chiameremo anche gli autori, insomma, anche insomma, secondo me avremo ancora occasione di confrontarci sulla gabbia e sul format del talk politico. Ma finalmente parliamo di quello che avevo annunciato la scorsa settimana. So che tu volevi parlare di una tanto trasmissione che a te piace molto, che a me piace a fasi alterne. Globalmente trovo che sia un esperimento interessantissimo. Una trasmissione che si intitola Gazebo, una trasmissione che questa settimana è tornata ad affrontare un altro argomento particolarmente scottante di attualità, e cioè quanto costano questi benedetti fagiolini che la Pascale ha detto che Berlusconi ad Arcore pagava 80 euro al chilo. Allora, io abito vicino ad Arcore, beh, non costano così tanto dalle nostre parti. Abiti vicino ad Arcore? Abito vicino ad Arcore, però sì, vedi come siamo diversi. A me ha sempre colpito di più un'altra delle frasi, per esempio le casse di pesce che arrivano. E poi davvero a Berlusconi non piace il pesce, strano, non... che è sempre così salutista, no? Non lo so, forse prediligeva il fagiolino da 80 euro al chilo. Ma quanto costano questi fagiolini? Ha fatto proprio un'indagine Gazebo. Supermercato Via Bergamo, prodotto già confezionato italiano, buon aspetto, categoria 1, 1,98 euro al chilo. Scusa, buon aspetto lo dici te o lo dico scritto io sopra? Sono opinionista. Sei opinionista che fa fagiolino. Ok, certo. Mercato coperto di Piazza Alessandria, 4,50 euro al chilo, però ferma. Qui Matteo, che è il proprietario del banco, il proprietario del banco, si è aperto e mi ha spiegato tutto il mondo fagiolino. Le confessioni di Matteo sul fagiolino. Dice lui, il prezzo è di 4,50 euro al chilo, però... ma se ne vuoi un chilo, vino, capato, pure pulito, allora si può arrivare anche a 18-20 euro al chilo. Attenzione. Dipende pure dalla stagione, perché è legge di mercato. E da chi te lo capa pure. Esatto. Mica sono tutti i capatori uguali. Esatto. Allora qui scatta la tecno-considerazio. Ascolta. Che ha fatto ascolta il classico sempre. Ascolta. Secondo me B mangia biologico. sì, cavato, lavato e stirato, arriviamo a 40 euro al chilo. 10 euro di benzina e il proprietario ci mette sopra per arrivare e stiamo a 50, 20 euro di mancia non gli vuoi dare e stiamo a 70. La Pascale non si è allontanata di tanto. E secondo me con questa spendi review B non mangia più il fagiolino biologico. Bene! Bene! Eccolo qua Gazebo, che poi davvero è uno dei programmi più interessanti della rete. Peraltro Zoro è stato promosso anche da Aldo Grasso, e se Aldo Grasso promuove, ragazzi, alziamo le mani. Se ce l'ha fatta. Siamo riusciti a non fare una discussione seriosa su è giornalismo, non è giornalismo, è grande inchiesta, non è grande inchiesta. Ecco, diciamo che racconta una storia e così va bene. Allora, la prossima volta faremo questa riflessione, giornalismo, non è giornalismo. Adesso però ci interrompiamo per qualche istante perché abbiamo ancora le indicazioni per chi sta viaggiando Miss Italia, in macchina. Vuoi parlare promesso. Di Miss Italia? Vabbè, no, dai, voglio la trasmissione Miss Italia. Ah, vuoi proprio Miss Italia? Dai, adesso, allora, tra poco parliamo anche di Miss Italia. YouTube. Rieccoci insieme per gli ultimi minuti con il nostro RadioTube di questa settimana, di questo fine settimana, ancora con Daniele Bellasio, con Marta Cagnola, chiocciola di Bellasio, chiocciola Marta Cagnola per chi è avvezzo a Twitter, l'hashtag RadioTube. Twitter è sempre molto immediato, ci consente di comunicare praticamente in tempo reale e anche di seguire tutto quello che sta facendo vibrare il web. Ci siamo chiesti a lungo se questa settimana così ha segnato la morte definitiva del talk show. Abbiamo ascoltato un abbozzo di lite tra Vittorio Sgarbi e il nostro Giuseppe Cruciani. Chiamala lite, non ha menato, questo vuol dire non ha usato bottiglie come in una trasmissione famosissima quando, di Giuliano Ferrari. Quando è uscito dallo studio, secondo te era vero? Beh, Davide è andato a prenderlo, David Parenzo è andato a prenderlo, poi ritorna, non lo so, è in televisione tutto vero e tutto non vero. Ma cercheremo di convincere Giuseppe a venire a RadioTube, così ci spiega cosa è vero, cosa non è vero, ci spiegherà un po', chissà se lo convinciamo a venire. Sì, ma io spero di sì, è così buono. Hai detto tu che è buono, l'hai è detto la belva tu, buona, Dylan detto. Dog malinconico, timido. Non ci posso credere. Uguale a Dylan Dog in televisione, identico, identico, anche se la similitudine trovata da Marta Cagnola durante la pausa pubblicitaria è quella definitiva. Vuoi non, dirla tu, non me lo ricordo già più cosa ho, de- cosa ho hai detto? Detto molto quelli della notte, quelli della belva l'ho chiamato, sì dai, quelli della notte andava fatto in terza serata, io l'avrei guardato fino all'alba, proprio sarebbe stata la morte sua, la morte della belva. Ma io ora passerei davvero a questo argomento che ci ha un po' scaldato, ti ha scaldato anche me e te via Twitter. Miss Italia, Miss Italia, io speravo che così sarebbe finita questa epopea. Adesso diciamo cosa ne pensiamo, però io vorrei farti sentire questo soavissimo audio di questo aulico spot che viene mandato in onda in questi giorni da La 7. Vediamolo. 5.000 lire per un sorriso che diventerà famoso in tutte le città. 5.000 lire. La finale nazionale del concorso che incoronerà la più bella d'Italia. Miss Italia, domenica 27 ottobre alle 20.40 sulla 7. Allora cerchiamo di nobilitarlo tornando al passato di 5.000 lire per parte. Un sorriso. Visto questo spot passo dall'altra visto parte. Visto alla radio, mostrato alla radio questo ma spot. Ma vedi che il revival ormai è l'attualità della nostra televisione. Ma dai, ma poi dobbiamo motivare in questo modo il fatto che torniamo a fare Miss Italia. Ma ti pare ancora che dobbiamo fare Miss Italia? No, allora io ho, ti spiego. Come io non se so. Essere belli fosse una colpa. No! E tu non hai capito qual è il mio punto. Allora, il problema è che... Il punto è che... solito, è la solita posizione femminista nei confronti... No, ma... No, io ho già fatto il giro. Io penso che le ragazze che sfilano a Miss Italia debbano essere pesate, misurate e zitte. Sei devono peggio essere di Sgarbi, belle. Stai provocando. No, stai no, provocando. Allora, queste ragazze vengono fatte parlare, quindi messe in imbarazzo, perché bisogna dimostrare che oltre le gambe sono intelligenti. Ma tu che però sei devono tutto. Essere belle, basta. Però lasciateglielo fare di essere belle basta. Non è che si può fare una polemica sociologica poi perché la Rai perché non è più sulla Rai, tu che sai tutto? Perché era brutto? È stato deciso, quindi, cioè, la Rai ha fatto questo scempio, cioè ha deciso di non avere Miss Italia, ma stiamo scherzando? Cioè, è come dire che basta, non guardiamo più la partita del mercoledì. Ci sono dei riti, ci sono delle cose da rispettare. A noi italiani ci dovete avvisare quando cambiate tutto questo scombussolamento per cui Miss Italia, che deve essere Rai 1, finisce alla 7. Ma cioè, io non, veramente questa televisione ormai è una maionese impazzita. Di riferimento. Esatto, io ho bisogno di punti di riferimento. Meno male che i giovani guardano tutto poi il giorno dopo in rete, oppure lo guardano in modi a noi imperscrutabili che decreteranno loro la morte. Infatti il palinsesto viene fatto il giorno dopo, ma allora non c'è più nessuno capace di fare televisione se il giorno dopo su Twitter noi dobbiamo ricomporci la televisione che vorremmo vedere. Tu stai mi faccio paura facendo... a me stesso. Sì, secondo me sei fuori controllo in questa trasmissione. Io vorrei aprire un altro capitolo, l'ultimo capitolo, perché siamo agli sgoccioli di questo RadioTube. Allora, Daniele ci tiene a specificare che non è che lui non conosca nessuno. La scorsa puntata non conosceva mica adesso. Però per e su Twitter c'è chi mi ha ringraziato, neanche io lo conoscevo. Ah, è lui che canta un coming questo. Out che tanti, sì, tanti non conoscevano mica ora X Factor. Ma abbiamo scoperto per lo spazio Mica Pizza e Fichi, questo è il nostro nuovo hashtag, che invece Daniele Bellasio conosce molto bene. No, non conosco. Che ha perlomeno sentito parlare di questa signorina. Ciao ragazze, allora, nuovo tutorial, questa volta è un trucco che mi avete chiesto tantissime, è un trucco che ho fatto tante volte ultimamente, quindi magari ogni volta che mettevo una foto su Instagram voi mi chiedevate il tutorial del trucco, era praticamente sempre lo stesso, perché è uno di quei trucchi che sono prova d'errore, ovvero non è che è facilissimo da fare, ma non è neanche difficilissimo, servono un po' di prodotti, però diciamo che è classico e anche se ci sono diversi prodotti, quindi un po' di sfumature, non risulta troppo pesante, troppo pacchiano, quindi l'ho fatto sia per il giorno che per la sera. Ovviamente se si fa per il giorno bisogna avere quella mezz'oretta di tempo per poter fare il tutto. Ho fatto questo e a me piace sinceramente. Bellasio, perché ti sei appassionato a Clio? Intanto parla un po' come te. Ma no, ma lei è veneta. Strepitoso. Lei è veneta, no, io no. Ma la possiamo chiamare? Brianzola. Dai, la chiamiamo qualche... Dobbiamo metterci d'accordo col fuso orario, perché lei sta a New York, lo sai? Ah, sta a New York? Lei sta a New York, sì, sì, ma ha sì, fatto sì, un sì, sacco di soldi con queste cose televisive, web, tu mi stai chiedendo social, una cosa un po' privata sua. Posso dirti che ha fatto un sacco di accessi. Cioè, è una star, sì, io lo so. Perché, è un'assoluta allora, star. Io l'ho scoperto perché per studiare, arrivare qui preparato, sono andato un po' in giro, ho visto le cose più cliccate. Ha detto cliccate! Comunque detto insomma cliccate, è questa volta l'ha detto Daniele Bellasio. Poi ho capito perché è cliccatissima, perché ha questo modo di parlare fantastico, si è inventato una professione che è una cosa bellissima. Come si può chiamare? Parla delle sfumature come per Morandi? È certo, perché lei cos'è, il pers? Allora, lei è una makeup artist. Sempre per l'hashtag Mica Pizza e Fichi. Dopo aver insegnato ancora le makeup pizze. Artist ti costa 5 euro, non 1, come avevamo detto l'altra volta. 5 euro devo mettere nel salvadanaio addirittura. Makeup artist, non l'ho mai sentito nominare io. No, allora questo Mica è proprio l'hashtag Mica Pizza e Fichi, col quale comunque si chiama Clio. Clio Makeup. Clio. Nome bellissimo. Vedi, cosa non impara Daniele Bellasio con questa trasmissione? Allora, dobbiamo salutare i nostri ascoltatori. Digia. Ma non li abbandoniamo, perché noi siamo sempre sui social, quindi ci possono contattare in qualsiasi momento. Lo possono fare in particolare via Twitter, che così è la cosa più rapida. Ci sentiamo velocemente, sì, tutte le ore del giorno e della notte siamo sempre lì. Cancelletto Radio Tube. I nostri account sono @ di Bellasio, @ Marta Cagnola. Tanto ci trovate sempre, basta chiocciolarci, noi siamo lì. Non è che scappiamo, non andiamo da nessuna parte. E forse la prossima volta scateniamo la belva. Scateniamo la belva, no, guardiamo anche Fabio Cantadori. Tu sei pronto se la prossima volta scateniamo la belva? Noi glielo chiediamo se viene. Non la scateniamo, dice. No, secondo Fabio non la scateniamo. Vediamo se scateniamo la belva. Salutiamo tutti perché è finito il nostro appuntamento con RadioTube. Al prossimo weekend. Saluti a Sandro Maier.